Cari fratelli e sorelle, continuando la nostra rivisitazione dei grandi maestri della Chiesa antica, vogliamo rivolgere oggi la nostra attenzione a una figura veramente eminente, a Sant'Atanasio di Alessandria. Questo autentico protagonista della tradizione cristiana, già pochi anni dopo la morte, venne celebrato come la colonna della Chiesa dal grande teologo e vescovo di Costantinopoli Gregorio Nazianzeno, e sempre è stato considerato come un modello di ortodossia tanto in Oriente quanto in Occidente. Non a caso dunque Gian Lorenzo Bernini ne collocò la statua tra quelle dei quattro santi dottori della Chiesa orientale e occidentale, insieme ad Ambrogio, Giovanni Crisostomo e Agostino, che nella meravigliosa abside della Basilica Vaticana circondano la cattedra di San Pietro. Atanasio è stato senza dubbio uno dei padri della Chiesa antica più importanti e più venerati. Ma soprattutto questo grande santo e l'appassionato teologo dell'incarnazione del Logos, del Verbo di Dio, che come dice il prologo del quarto Vangelo ora letto, si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Proprio per questo motivo Atanasio fu anche il più importante e tenace avversario dell'eresia ariana che allora minacciava la fede in Cristo, trasformando la divinità in una alta visione di una creatura media tra Dio e uomo, secondo una tendenza ricorrente nella storia e che vediamo in atto in diversi modi anche oggi. Nato probabilmente ad Alessandria in Egitto verso l'anno 300, Atanasio ricevette una buona educazione prima di divenire diacono e segretario del vescovo della metropoli egiziana, Alessandro. Stretto collaboratore del suo vescovo, il giovane ecclesiastico prese parte con suo vescovo al Concilio di Nicea, il primo a carattere ecumenico, convocato dall'imperatore Costantino nel maggio del 325 per assicurare l'unità della Chiesa. I padri niceni poterono così affrontare varie questioni e principalmente il grave problema originato qualche anno prima della predicazione del presbitero alessandrino Ario, alla quale avevo già accennato. Questo Ario minacciava con la sua teoria l'autentica fede in Cristo, dichiarando che il Logos non sarebbe vero Dio, ma sarebbe un Dio creato, un essere medio tra Dio e l'uomo, e così il vero Dio rimarrebbe sempre inaccessibile per noi. I vescovi riuniti a Nicea risposero, mettendo a punto e fissando il simbolo di fede che, completato più tardi dal primo concilio di Costantinopoli, è rimasto nella tradizione delle diverse confessioni cristiane e nella liturgia come il credo niceno-costantinopolitano. Questo testo fondamentale esprime la fede della Chiesa indivisa e lo recitiamo anche oggi, ogni domenica, nella celebrazione eucaristica. In questo testo fondamentale della Chiesa indivisa figura il termine greco homoousios, in latino consubstantialis. Vuol dire che il Figlio, il Logos, è della stessa sostanza del Padre, è Dio di Dio della sua sostanza, e così viene messo in luce la piena divinità del Figlio che era negata dagli ariani. Morto il vescovo Alessandro, Atanasio divenne nel 328 suo successore come vescovo di Alessandria e subito si dimostrò deciso a respingere ogni compromesso nei confronti delle teorie ariane condannate dal Concilio Niceno. La sua intransigenza, tenace, a volte anche molto dura, ma è proprio in servizio della fede che realmente Dio si è fatto uomo, questa sua intransigenza necessaria naturalmente ha un po' fatto anche più duro l'opposizione contro di lui, di tutti gli avversari del simbolo niceno, e ha attirato una implacabile ostilità degli ariani e dei filo-ariani contro di lui. Nonostante il chiaro esito del concilio, che aveva con chiarezza detto che il figlio della sostanza del padre, poco dopo queste idee sbagliate tornarono a prevalere e fu persino riabilitato a Rio e vennero sostenuti per motivi politici dallo stesso imperatore Costantino e poi dal suo figlio Costanzo II, che non si interessa tanto per la verità, ma per l'unità dell'impero e per i problemi politici, e voleva politicizzare la fede rendendola più accessibile, secondo il suo parere, a tutti i suoi sudditi nell'impero. Questa crisi ariana, che sembrava essere risolto dal Concilio Niceno, continuò così per decenni, con vicende difficili, divisioni dolorose nella Chiesa. Per ben 5 volte, durante un trentennio, Atanasio fu costretto ad abbandonare la sua città, passando 17 anni in esilio e soffrendo per la fede. Ma durante le sue forzate assenze da Alessandria, il vescovo ebbe modo di sostenere e diffondere in Occidente, prima a Treveri, poi a Roma, la fede nicena e anche l'ideale del monachesimo abbracciato in Egitto dal grande eremita Antonio, con una scelta di vita alla quale Atanasio fu sempre vicino. E Sant'Antonio, con la sua forza spirituale, era la persona più importante che sosteneva con la sua spiritualità la fede di Sant'Atanasio. Reinsediato nel 366 definitivamente nella sua sede, Sant'Atanasio poté dedicarsi finalmente alla pacificazione religiosa e alla riorganizzazione delle comunità cristiane. Morì il 2 maggio del 373, giorno in cui celebriamo la sua memoria liturgica. L'opera dottrinale più famosa del Santo Vescovo Alessandrino è il trattato sull'incarnazione del Verbo, il Logos divino che si è fatto carne, divenendo come noi per la nostra salvezza. Dice in quest'opera Atanasio, con un'affermazione divenuta giustamente celebre, che il Verbo di Dio si è fatto uomo perché noi diventassimo Dio, egli si è reso visibile nel corpo perché noi avessimo un'idea del Padre invisibile, ed egli stesso ha sopportato la violenza degli uomini perché noi ereditassimo l'incorruttibilità. Con la sua risurrezione, infatti, il Signore ha fatto sparire la morte come se fosse paglia nel fuoco. E l'intenzione fondamentale di tutta la lotta teologica di Sant'Atanasio era proprio quella che Dio è accessibile, non un Dio secondario, il Dio vero, e tramite la nostra comunione con Cristo possiamo noi unirci realmente. Dio è divenuto realmente Dio con noi. Tra le altre opere di questo grande padre della Chiesa, che in gran parte rimangono legate alle vicende della crisi ariana, ricordiamo poi le quattro lettere che egli indirizzò all'amico Serapione, vescovo di Tmuis, sulla divinità dello Spirito Santo, che viene affermata con nettezza in una trentina di lettere festali indirizzate all'inizio di ogni anno alle chiese, ai monasteri dell'Egitto, per indicare la data della festa di Pasqua, ma soprattutto per assicurare i legami tra i fedeli, rafforzandone la festa e preparandoli alla festa liturgica della Pasqua. Atanasio, infine, anche autore di testi meditativi sui Salmi, poi molto diffusi, e soprattutto, come ci ha accennato, di un'opera che costituisce il bestseller dell'antica letteratura cristiana, La vita di Antonio, cioè la biografia di Sant'Antonio Abate, scritta poco dopo la morte di questo santo, proprio mentre il vescovo di Alessandria esiliato viveva con i monaci del deserto egiziano. Atanasio fu, come ci ha detto, amico del grande eremita, al punto da ricevere una delle due pelli di pecora lasciate da Antonio come sua eredità, insieme al mantello che lo stesso vescovo di Alessandria gli aveva donato. Divenuta presto popolarissima, tradotta quasi subito in latino per due volte e poi in diverse lingue orientali, questa biografia esemplare di una figura cara alla tradizione cristiana contribuì molto alla diffusione del monachesimo in Oriente e in Occidente. Non a caso la lettura di questo testo a Trevari è al centro di un emozionante racconto della conversione di due funzionari imperiali che Agosto colloca nella confessione come premessa della sua stessa conversione. Del resto, lo stesso Atanasio mostrò di avere chiara coscienza dell'influsso che poteva avere sul popolo cristiano la figura esemplare di Antonio. Scrive infatti nella conclusione di quest'opera, cito, che fosse dappertutto conosciuto, da tutti ammirato e desiderato, anche da quelli che non l'avevano visto, è un segno della sua virtù e della sua anima amica di Dio. Infatti, non per gli scritti, né per una sapienza profana, né per qualche capacità è conosciuto Antonio, ma solo per la sua pietà verso Dio. E nessuno potrebbe negare che questo sia un dono di Dio. Come infatti si sarebbe sentito parlare in Spagna, in Gallia, a Roma e in Africa di quest'uomo che viveva ritirato tra i monti, se non l'avesse fatto conoscere dappertutto Dio stesso, come egli fa con quanti gli appartengono e come aveva annunciato ad Antonio fin dal principio. E anche se questi agiscono nel segreto e vogliono restare nascosti, il Signore li mostra a tutti come una lucerna, perché quanti sentono parlare di loro sappiano che è possibile seguire i comandamenti e prendano coraggio nel percorrere il cammino della virtù. Sì, fratelli e sorelle, abbiamo tanti motivi di gratitudine verso Sant'Atanasio, la sua vita, come quella di Antonio e di un innumerevole altri santi, ci mostra che Chi va verso Dio non si allontana dagli uomini, ma si rende invece ad essi veramente vicino. Grazie.